Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene qui su Radio Big World. Io sono Franco Cesari e assieme a Elisa Pasquini e a Francesca Romano faccio parte di Energicamente, un'associazione che si occupa di studi e ricerche sul benessere e sull'equilibrio psicofisico dell'individuo. Anche oggi vi parlerò di intelligenza emotiva, chiudendo così con questa puntata l'argomento già intrapreso nel podcast precedente. La concezione di intelligenza, considerata quella basata su test di tipo quoziente intellettivo per intenderci, è ormai superata dal concetto di intelligenza emotiva, che si esprime come una meta-abilità, vale a dire una capacità di servirsi di altre capacità attraverso la gestione stessa dell'esperienza emotiva in questo caso. E questa abilità così complessa funziona ottimizzando la circolazione emotiva ed è centrale nel quotidiano processo di adattamento che è alla base del benessere e dello sviluppo psicofisico dell'individuo. Sono stati elaborati per la valutazione dell'intelligenza diversi test definiti psicometrici. Prevedono una serie di prove, il cui grado di difficoltà è ovviamente in relazione all'età anagrafica del soggetto. Di solito come funziona? Viene calcolato il quoziente intellettivo del soggetto da esaminare ed è ottenuto rapportando l'età mentale, valutata sulla base del numero di prove superate e in base a quella che statisticamente viene ritenuta come età normale. Tutto questo viene rapportato con l'età cronologica, cioè l'età effettiva dell'individuo. Quindi diventa un'equazione di tipo quoziente intellettivo uguale età mentale fratto età cronologica. E quindi in pratica il quoziente intellettivo va a indicare la posizione che l'individuo sotto test assume rispetto ai valori considerati normali per la popolazione della sua stessa età. Prevedono che per ogni età, quindi, ogni individuo abbia un certo risultato che viene quantificato in base ai risultati medi ottenuti da un campione statistico su una popolazione più possibile omogenea. Esistono diversi tipi di test, ve ne elenco qui alcuni: ci sono le scale di Wechsler, le matrici progressive di Raven, i labirinti di Porteus, le scale di Stanford-Binet, sia quelle in versione originale sia quelle poi riviste e riallineate da Thermal e Merrill e così via. Questo tipo di misurazione a cui siamo abituati, ci siamo abituati nel corso degli anni, in realtà ha mostrato nel tempo dei grossi limiti. Limiti già evidenziati da un teorico piuttosto importante da un punto di vista educativo e pedagogico, quale è Jean Piaget. Jean Piaget diceva che è intelligente il comportamento che tende all'adattamento. E quindi per la prima volta mette in relazione il concetto di adattamento con il comportamento e ciò che del comportamento diviene intelligenza. Il concetto di adattamento viene utilizzato quando si effettua anche una diagnosi psichiatrica, facendo riferimento a dei criteri che normalmente sono quelli definiti e classificati nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, redatto da una struttura particolarmente importante quale l'American Psychiatric Association. La diagnosi che ne esce fuori, oltre a chiarire la presenza di disturbi mentali ed individuare le risorse su cui impostare un lavoro di sostegno, sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista emotivo, dunque, viene mirata anche a chiarire se sono presenti difficoltà nel corso della propria vita, per affrontare la vita, ad esempio se ci sono malattie in essere, se l'individuo ha subito esperienze traumatiche, dei lutti per esempio e così via dicendo. Tutte queste cose possono mettere a dura prova la salute mentale della persona. Ecco che l'adattamento diviene il criterio fondamentale quando poi si va a valutare lo stato di salute mentale dell'individuo che non può essere peraltro scissa dalla salute fisica e dal benessere sociale. Il corpo, la mente e la relazione con altri individui sono infatti i tre ingredienti del benessere, dell'equilibrio Su questo non ci sono grossi dubbi in realtà, no? Se proviamo a riflettere sui motivi psicologici, fisici e relazionali per cui siamo soliti affermare di noi stessi o di altri che di star bene o di star male. Così come se si viene a pensare al modo in cui un handicap fisico o una malattia possono coinvolgere il benessere anche da un punto di vista psicologico e quindi limitare anche le relazioni sociali. Ne consegue che la salute, intesa in senso complessivo, è il prodotto dell'interazione tra almeno questi tre ordini di fattori, lo psichico, il fisico e il sociale, per l'appunto. Le emozioni, implicando il coinvolgimento di tutti e tre i fattori, svolgono quindi un ruolo importantissimo, fondamentale a livello della salute della persona. Gli studi che sono stati effettuati in questo ambito, cito per esempio quelli di Cardaci e Lombardo, hanno chiarito infatti che le emozioni sono dei fenomeni complessi che si manifestano su vari piani, cioè un piano fenomenologico, esperienziale, potremmo definirlo così, e quindi che va tutto letto in chiave psichica, c'è un altro piano di tipo fisiologico e quindi fisico, e infine c'è un piano che potremmo definire espressivo comportamentale che è completamente orientato verso il sociale, verso l'esterno. Le recenti evidenze neuropsicologiche hanno mostrato, inoltre, quali aree del cervello sono maggiormente coinvolte nella mediazione dei fenomeni emotivi. È stata elaborata nel 90, in particolare da Salloway e Meyer, la concezione dell'intelligenza emotiva. Stessa concezione che poi è stata diffusa da Goleman, il quale ha avuto il grande merito di approfondire il rapporto tra mente razionale e mente emozionale, rapporto in cui si possono cominciare a cogliere i presupposti del contributo fornito dall'intelligenza emotiva all'intero benessere psicofisico. Infatti, se ragioniamo su un cervello, potremmo vedere che le basi anatomiche delle emozioni sono rintracciate nelle strutture più primitive, più interne, quelle localizzate nel sistema limbico, a cui si vanno poi a sommare gli input ambientali prima ancora di raggiungere le aree superiori della corteccia coinvolte. E queste vengono attivate a seconda del compito di adattamento richiesto in modo assolutamente diverso. L'approccio di questo tipo, che potremmo chiamare approccio di tipo anatomico funzionale, comporta l'evidenza tangibile della posizione centrale dei circuiti neuronali emozionali. Questa centralità implica il continuo coinvolgimento delle strutture affettive, prima ancora che lo strato delle cellule attivate vada a propagarsi in aree superiori. Ne consegue una condizione che è una concezione di intelligenza emotiva come meta-abilità, come abilità dell'abilità, appunto. Quindi la capacità che consente di servirsi di altre capacità attraverso, come abbiamo detto, l'esperienza emotiva che l'individuo ha attivato, ha avuto nel corso della sua vita. Tutto questo è possibile perché nel nostro cervello, che è un organo assolutamente responsivo verso stimoli esterni e interni, si attuano una serie di processi per cui i modi in cui viviamo i nostri stati d'animo generano delle modificazioni anche fisiologiche che possono influenzare la durata, l'intensità dell'attivazione appunto di queste cellule, di queste aree cerebrali che sono deputate ai vissuti emotivi. Parliamo quindi di abilità emotive. Le abilità che compongono l'intelligenza emotiva sono cinque e sono spesse indicate in maniera diversa, con terminologie diverse a seconda dei vari autori, però rimangono generalmente quasi cinque. Vengono indicate le capacità più specifiche che ne derivano, che rappresentano veri e propri indicatori di come si manifestano queste abilità. Prendiamo ad esempio una tassonomia tra le tante, quelle più usate magari. La prima abilità è la consapevolezza emotiva, che genera la capacità di distinguere e denominare le proprie emozioni in alcune situazioni, in alcuni contesti, oppure il riconoscimento dei segnali fisiologici che ci danno l'indicazione del sovraggiungere di un'emozione, o ancora la capacità di comprendere le cause che scatenano determinate emozioni. Abbiamo poi il controllo emotivo come seconda abilità, che si manifesta attraverso il controllo degli impulsi delle emozioni, il controllo dell'aggressività verso altri, il controllo dell'aggressività anche nei confronti di noi stessi, per esempio, perché no? E come terza abilità abbiamo la capacità di sapersi motivare, e qui come indicatori possiamo individuare la capacità di incanalare, energizzare e armonizzare le emozioni dirigendole verso il raggiungimento di un obiettivo, ad esempio, e anche la tendenza a reagire attivamente, quindi con iniziativa, con ottimismo, agli insuccessi e alle frustrazioni. Come quarta abilità abbiamo sicuramente l'empatia. L'empatia come indicatori ha la capacità di riconoscere gli indizi emozionali altrui, quindi da parte di altre persone, e la sensibilità nei confronti delle emozioni e le prospettive altrui, delle persone con cui ci relazioniamo. Infine, la quinta abilità è la gestione efficace delle relazioni interpersonali. E questa abilità è composta dalla capacità di negoziare i conflitti tendendo alla risoluzione delle situazioni e anche dalla capacità di comunicare efficacemente con gli altri e riuscire quindi a capitalizzare la comunicazione che attiviamo. Le capacità individuali, quindi in queste cinque aree che compongono l'intelligenza emotiva, producono degli effetti nella vita quotidiana. Questo implica che le buone abilità emotive relative a una specifica dimensione si traducono poi in vantaggi psicologici, così come buoni livelli globali di intelligenza emotiva possono dar luogo a condizioni più generali di benessere e di successo in senso più ampio, più esteso per tutto l'individuo. All'opposto, è possibile ricondurre alcune specifiche difficoltà personali o relazionali a deficit in determinate aree dell'intelligenza emotiva. Allo stesso modo, i costi imposti dalle difficoltà emotive possono essere anch'essi tradotti a lungo termine in veri e propri stili di vita, dunque in situazioni che fanno perdurare, no, il malessere emozionale e che possono caratterizzare difficoltà transitorie che poi sfociano in disturbi mentali permanenti. Esaminando le funzioni di ciascuna dimensione emotiva è possibile tracciare i principali legami con il benessere psicologico e conseguentemente con il disagio psichico, compiendo allo stesso tempo un viaggio nel nostro mondo interiore che ci può consentire di conoscerci meglio. Siamo giunti al termine dunque anche di questa puntata. Vi ricordo i nostri contatti, che sono il sito internet www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it e quindi la nostra pagina Facebook che è Energicamente Competenze per il Benessere. Vi ricordo anche i nostri recapiti telefonici, dove potete inviarci anche messaggi WhatsApp, e sono quello di Elisa, il 339-3860-123, quello di Francesca, il 340-2345-340, e il mio, che è il 329-8989-669. Ringrazio dunque gli amici di Radio Big World per la solita cortese ospitalità. Ringrazio voi tutti per averci seguito come sempre in maniera molto interessata e molto, molto attenta e proficua. Buon tutto a voi e a risentirci, a presto. Ciao!